It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 13 dicembre, buongiorno, bentornati di nuovo a tutte e tutti per questa nuova settimana con Liberi Dentro Eduradio e TV. Come vedete anche le nostre sigle sono un po' cambiate in questo periodo che ci avvicina alle festività e noi siamo sempre in onda con voi tutti i giorni, a questo punto anche per il 2022. Vero Antonella che sei qui con me? Ciao! Senz'altro saremo sempre con voi. Ciao, buongiorno a tutti. E sempre sui nostri canali Teletricolore, Radio Città Fujiko e Lepida TV Canale 118. Ma oggi è anche la giornata di Santa Lucia e si dice sempre Santa Lucia è il giorno, la notte più lunga che ci sia. E io mi sono chiesta, ma è vero? Sarà davvero così? Allora sono andata a cercare, un po' per me ma anche per voi. Ed è vero che è un detto molto popolare, ma non corrisponde esattamente alla realtà. Tant'è vero che il giorno più corto dell'anno non è il 13 dicembre, ma uno fra il 21 e il 22 di dicembre, che è la data in cui avviene il solstizio di inverno, quando il sole tocca il punto più meridionale del suo tragitto, il suo tragitto annuo, diciamo, intorno alla Terra, quindi sorgendo tardi e tramontando presto, risultando molto basso a mezzogiorno, ed è per questo che diciamo che è la notte più lunga che ci sia. Ma andiamo subito ad aprire la nostra casellina, che noi chiamiamo la casellina dell'avvento, per noi laicissimo, perché è un avvento che condividiamo con tantissime culture, religioni e tradizioni diverse, e un calendario che ci avvicina alle festività. E io apro la casellina e leggo il messaggio di Maurizio dalla Dozza, che ci presenta 10 punti, pensa Antonella, in cui ci parla del significato dell'attesa delle feste quando si è in una condizione di restrizione, di detenzione. Quindi il carcere, dice, come luogo in cui apprendere il significato dello stare insieme, del Natale, che rende consapevoli anche della indissolubile importanza della famiglia, e delle feste natalizie come momento in cui si fa un po' un esame di coscienza e si prende anche consapevolezza delle scelte sbagliate fatte in passato, e poi si pensa alla propria vita ora, com'è e come potrebbe essere in futuro. E poi anche la speranza di mettersi in gioco tutti i giorni, grazie, lui dice, ai volontari esterni, i quali ti fanno sentire parte integrante della società, e che purtroppo invece non è così, molto spesso non viene avvertito da parte delle istituzioni. Quindi invitiamo le istituzioni a essere più presenti anche nelle carceri. E poi infine dice una cosa bellissima dedicata a noi di Eduradio, che la leggo testuale: il Natale è per poter ringraziare di cuore chi si prende cura di noi detenuti, come gli amici di Eduradio TV, che con la loro opera ci fanno sentire inseriti nella società, parlando con noi, entrando nel nostro cuore, abbracciandoli tutti con un sentito grazie di esistere e stare al nostro fianco. Ma in realtà siamo noi che ti abbracciamo, Maurizio, ti ringraziamo tantissimo. Io mi unisco a Caterina, siamo noi che ti ringraziamo per queste cose belle che hai scritto e anche perché, insomma, ci stai vicino, quindi tieni duro, mi raccomando. E legato un po' alle cose che ci ha detto Maurizio, legata all'affettività, c'è la prima notizia che vi racconto oggi, che ci viene dalla Regione Lazio, la voce dei detenuti: noi senza libertà dateci almeno un po' d'amore. Lo leggo da Il Riformista, firma di Angela Stella, perché affettività in carcere, una proposta di riforma tra esigenza di tutela contrapposte, è stato il titolo dell'evento che si è svolto la settimana scorsa nella sede del Consiglio regionale a Roma, per presentare i risultati della ricerca dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale proprio a proposito del tema dell'affettività dietro le sbarre. È un tema molto importante, Caterina, lo sappiamo, e sappiamo anche che l'Italia, rispetto ad altri paesi europei che ammettono luoghi per l'affettività in carcere, noi siamo un po', insomma, il fanalino di coda. Ma questa ricerca come è stata realizzata? Guarda, si tratta di una ricerca intervento finalizzata proprio a sviluppare su base empirica, scientifica, su cui costruire una proposta di legge. Una proposta volta allo sviluppo della qualità delle relazioni affettive nelle case circondariali italiane. Sono stati intervistati per questa ricerca oltre 200 detenuti tramite questionari standardizzati e diverse figure anche professionali dirigenziali penitenziarie. Senti, che cosa emerge da questi dati? Ma allora, i dati naturalmente ci raccontano i numerosi disagi socio-affettivi e relazionali riscontrati nella popolazione intervistata. In particolare a soffrirne sono le relazioni familiari. Inoltre il 50% dei casi anche a seguito delle pesanti restrizioni per il Covid-19, che si rivelano chiaramente queste relazioni familiari in bilico perché connotate da bisogni insoddisfatti, mancanza di affetto, ma anche mancanza di gesti di intimità. E una delle cause principali dei disagi è stata riscontrata proprio nel sovraffollamento, in quanto non consente la predisposizione di locali adeguati dove poter effettuare i colloqui con i propri cari. Senti, ma parliamo proprio di intimità in carcere, cioè il sesso in carcere. Guarda, l'introduzione della sessualità col proprio partner all'interno dell'istituto di pena, leggo dall'abstract della conferenza, ha trovato un generale consenso legato soprattutto alla salvaguardia del rapporto con il coniuge e anche al benessere psicofisico. Ma molti degli intervistati pongono delle condizioni indispensabili affinché ciò avvenga, per esempio un tempo e uno spazio adeguato, essere lontani dalle sezioni, salvaguardare quel minimo di intimità e insomma anche accessi riservati chiaramente. La mancanza di sessualità viene avvertita come un generale senso di frustrazione, come privazione ingiustificata anche per il partner che è fuori dal carcere, chiaramente, no? Quindi diventa una doppia ingiustizia. La conclusione che si trae dalla lunga relazione di circa 80 pagine è che c'è bisogno assolutamente di un cambiamento. La proposta di legge elaborata a seguito di questa analisi condotta ha preso spunto dai risultati della ricerca e dal disegno di legge a tutela delle relazioni affettive dei detenuti. Tra le previsioni c'è quella di introdurre le cosiddette visite o colloqui intimi, accompagnate tuttavia, oltre alla mancanza di un controllo visivo, anche da tempi e spazi più adeguati. Si parla dalle 6 alle 24 ore per poter stare insieme alla persona amata, ecco. Ma un po' di stacchetto musicale, oggi non c'è il brano perché siamo lunghi, i nostri tempi si allungano con questo calendario di cui vi facciamo tutte le volte un po' la narrazione e con te Antonella parliamo di musica, diritti e umanità. Sì, Caterina, oggi parliamo di un artista che si chiama John Baptiste, e musicista vincitore ai Golden Globe e agli Oscar 2021 per la migliore colonna sonora originale del film Soul. Ed è un po' un invito alla presa di coscienza, catalizzata da una parte da questo periodo pandemico, ovviamente, e dall'altra anche dalle proteste dello scorso anno. Ti ricordi la morte di George Floyd? E durante cui, tra l'altro, lo stesso John Baptiste ha radunato 5.000 manifestanti newyorkesi in una marcia pacifica suonando e cantando per le strade di Manhattan. E il suo album si chiama We Are. Ma sembra essere un album veramente socialmente impegnato questo, vero? Eh sì, in effetti lo è. È uscito a marzo 2021 e rappresenta una risposta alle difficoltà e alle ingiustizie sociali, in sostanza, e mediante ovviamente l'arte che Baptiste giustamente esercita nel migliore dei modi, e che compie tra l'altro un ulteriore passo evolutivo verso una concezione musicale abbastanza contaminata, perché mescola la tradizione, l'innovazione, le sonorità dei canti gospel, del jazz, del soul, dell'R&B, agli anni 70, all'hip hop contemporaneo. E il risultato chiaramente è una miscela esplosiva di musica, ma soprattutto la cosa più bella, Caterina, è che per lui la musica è allegria e spensieratezza, è proprio la sua poetica. Lui ritiene che le emozioni necessarie per ritrovare il senso di convivialità siano queste, soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale che è veramente duro. Ma raccontaci un po' di lui, chi è Baptiste? Allora, intanto preciso che prima di raggiungere questo successo, Baptiste ha collaborato con altri 200 musicisti, tra quali alcuni importantissimi come Quincy Jones, Mavis Staples, oppure addirittura la scrittrice Zadie Smith, la scrittrice inglese con cui durante il lockdown ha continuato sistematicamente a tenere sessioni di canto su Zoom, per esempio. Ma la sua fama è dovuta soprattutto a The Late Show di Stephen Colbert, dove è direttore musicale. E infatti ha arrangiato e suonato musica per dozzine di edizioni di questa trasmissione americana, e acquisendo una certa notorietà non solo come compositore e musicista, ma anche come personaggio televisivo. E la storia di Baptiste, diciamo, comincia a New Orleans, nel quartiere di Metairie, dove è nato e cresciuto in una famiglia di musicisti, quindi è figlio d'arte. I genitori sono Lionel Baptiste, Harold Baptiste, insomma sono veramente persone che hanno vissuto di musica, e anche i fratelli suonavano, e infatti avevano già una band quando lui aveva 8 anni, tanto per dire. In adolescenza ha continuato a suonare il pianoforte, a prendere lezioni di musica classica, mentre trascriveva, penso un po', le musiche per i videogiochi Street Fighter Alpha, Final Fantasy VII, eccetera, sviluppando uno stile musicale già molto riconoscibile. A 17 anni pubblica il suo primo album, Times, a New Orleans, mentre frequenta il New Orleans Center of Creative Arts con Truman Short. Insomma, la sua carriera poi si incrementa sempre di più, ma è soltanto durante il periodo di studi alla famosa Juilliard che Baptiste inizia veramente a rivoluzionare lo stile musicale, rinominandolo come social music. Ed è per questo che ci piace, perché una persona che fa social music adesso è una persona che deve avere sempre spazio nel nostro programma. E quindi, insomma, ci sono sonorità, tra l'altro, diversissime, da Duke Ellington a Stevie Wonder, Wu-Tang Clan, Bjork, pensate che insomma, ricchezza. Quindi musica, socialità e solidarietà sono poi le componenti che hanno sempre fatto parte dell'arte di Baptiste, specialmente da quando, appunto, quando è nata la band con cui tuttora continua ad esibirsi, che si chiama Stay Human. Pensa pure, il nome della band si chiama Stay Human, Resto Umano, e amplia e amplifica sempre di più il suo progetto, che è appunto basato su socialità e solidarietà. Quindi la musica dal vivo come elemento importante per connettersi con le altre persone, e perché tutte la nostra indole è quella di essere in connessione. E infatti con We Are, Baptiste ripropone questi concetti proprio, rinnova le sue radici di musicista e anche l'eredità della black music, partendo dal gospel, come dicevamo, per arrivare alla realizzazione di questa nuova esperienza musicale che unisce tutto insieme, pop, musica contemporanea, tutto quello che ci può stare, con i contenuti e i significati non solo musicali, ma anche politici, sociologici e metanarrativi. Insomma, We Are ci parla di eventi, di condizioni reali della nostra quotidianità, attraverso le emozioni suscitate dalla musica, che in questo senso appunto assume un linguaggio metanarrativo, che anche addirittura nel film di cui ti parlavo, nel film Pixar Soul, emerge e appunto assume la sua, diciamo, forma migliore. Ma proprio per rimanere su questo cantante e musicista, lo ascoltiamo, Caterina, che dici? Assolutamente, te lo stavo per chiedertelo. Sì, no, infatti tutta la settimana ci ascoltiamo John Baptiste, ci ascoltiamo la canzone Cry, e che si apre così: chi ami, chiamerai, chiamerai quando il gioco si farà duro. E allora ce la scontiamo insieme. Però vi voglio anche dire un'altra cosa. Dopo questa canzone ci sarà Fernanda Abiuso, che è una volontaria AVOC. Sapete che l'AVOC è l'associazione bolognese che si occupa di accompagnamento dei detenuti, visite in carcere, ricerca di domicilio esterno. Insomma, un'associazione che veramente aiuta tantissimo il prossimo. Però adesso ci ascoltiamo Cry di John Baptiste. Comes to shove. Ooh. Buongiorno a tutti, oggi per Liberi Dentro siamo qui insieme a Fernanda Biuso, vicepresidente dell'associazione AVOC, che ci spiegherà in questa prima pillola in cosa consiste proprio questa associazione, gli obiettivi che si è posta anche. Direi via con la pillola. Ciao Fernanda, allora spiegaci innanzitutto in cosa consiste AVOC e quali sono gli obiettivi di questa importante associazione per le persone detenute. Ok, AVOC, come dice la sigla, è un'associazione volontari carcere, nel senso che si dedica a questo ambito. È nata circa una trentina di anni fa qua a Bologna. La prima anima è stato un sacerdote del Barracano, io non conoscevo, non ero neanche qua, allora non l'ho conosciuto, che entrava in carcere. Intorno a lui si sono poi raggruppate delle persone e pian pianino poi si è costituita l'associazione. Naturalmente adesso è uno statuto, è un'associazione di volontariato, io non dirvi, e raccoglie più anime. Si definisce naturalmente apartitica e non ha una religione costituzionale, diciamo, istituita. E quindi ci sono persone diverse al suo interno. Siamo circa 65 persone, più o meno. Il nostro elenco soci va continuamente aggiornato fra entrate e uscite. Stanno entrando ultimamente persone anche giovani, e anche già da forse da 2 anni in qua qualcuno che ci chiede i tirocini collegati al percorso universitario, post universitario, a master, post universitario, insomma. Quindi curiamo anche quella parte lì. Dunque, l'associazione nasce come assistenza ai detenuti, con un'azione all'interno del carcere e che poi ha generato anche un'azione all'esterno. All'interno del carcere, quello che io sono entrata 11 anni fa circa nell'associazione, quindi so quello che è. E adesso è il momento di un breve stacco musicale. Torniamo presto con la pillola. انه انت بتعرف كل شي عن الحب اكتر من كل شي في حب وممكن بعده الجاي عالدرب ومصدق حالك انه انت بتعرف كل شي عن الحب اكتر من كل شي في حب وممكن بعده الجاي عالدرب ومصدق انه بتفهمني وبتفهمني اكتر مني بتقلي ما بعرف حالي ومصدق انه بتفهمني وبتفهمني اكتر مني بتقلي بتعرف شو بدي وانا حالي ما بعرف حالي Dopo un breve stacco musicale è il momento di continuare la nostra intervista insieme a Fernanda Biuso e adesso ricomincia la pillola. E Fernanda, riesci a parlarci anche di quali sono le attività e servizi che AVOC mette a disposizione per le persone detenute? All'interno del carcere l'AVOC fa una cosa basilare, che è quella di vestire i detenuti, le persone detenute, fornire anche prodotti per l'igiene personale e dell'ambiente. Sapete che loro devono tenere pulite le loro celle, quindi servono i detersivi, c'è questa promiscuità ovviamente, per cui bisogna stare attenti ai livelli igienici. E quindi li vestiamo con una regolarità, naturalmente vestiamo le persone che non hanno supporto dall'esterno, che non hanno familiari che portano le cose. Quindi questa è l'azione che anche nel rendiconto economico dell'associazione pesa di più, perché ci avvaliamo del ciclo dell'usato per l'abbigliamento, ma compriamo l'intimo, le scarpe, le ciabatte, gli asciugamani, insomma le cose che non si trovano molto spesso nell'usato. Gli occhiali da lettura, abbiamo le scatole degli occhiali da lettura, insomma queste cose le forniamo di default. Ogni volontario, alle volte in coppie si va oppure anche singolarmente, ogni volontario ha assegnato un braccio, un'area, quindi vede regolarmente le persone all'interno dell'area in cui sono collocate. Questo è un calendario che aggiorniamo costantemente, dove inseriamo i nuovi che si offrono appunto di fare volontariato e che vengono accompagnati in questo tentativo, diciamo, di fare questo servizio. All'interno sosteniamo gli studenti in tutti i livelli di percorsi formativi, percorsi educativi più che formativi, quindi c'è un tutoraggio fino all'università, insomma fino al nucleo universitario. Riusciamo a fare piccoli gruppi, adesso piccoli per via del Covid, prima potevano essere un po' più estesi, piccoli gruppi con percorsi di formazione tipo sulla scrittura autobiografica. C'è una nostra collega che ha questa formazione dalla Libera Università dell'autobiografia di Anghiari e fa costantemente questo lavoro, quindi di raccolta degli iscritti, e ogni anno stampiamo il libretto. Ci sono i gruppi Vangelo che quindi partono dalla lettura del Vangelo. Raccolgono, in passato hanno raccolto anche persone di diverse religioni, questo soprattutto quando non c'era l'aria, quando non si sono aperti i cancelli all'interno dei bracci, perché appunto le persone non avevano dove andare e cosa fare, quindi il tempo vuoto che è la cosa peggiore di cui si lamentano tutti, anche se magari non avrebbero un lavoro da fare oppure non vorrebbero fare un lavoro troppo pesante, no? Però il tempo vuoto che il carcere definisce per tutti i suoi residenti è un aspetto molto pesante e anche demoralizzante e spersonalizzante in qualche modo, perché diventi veramente, perdi l'identità in questa situazione. Quindi queste azioni hanno come obiettivo di aiutare la persona a conservare la propria dignità in qualche modo, perché il vestirsi, il tenersi puliti, l'avere comunque dei rapporti con persone che vengono dall'esterno quando non ci sono i familiari, per esempio, i volontari, e ci sono molte associazioni di volontariato che sono presenti a vario titolo alla Dozza, noi siamo una delle tante. E diventa molto importante, insomma, che ci sia il mondo fuori che entra con loro, perché alle volte l'accesso all'esterno può essere molto difficile. All'esterno facciamo questo lavoro di ospitalità che, grazie appunto a questi alloggi che il Comune di Bologna ha destinato alle associazioni tramite bandi, in comodato d'uso gratuito, noi riusciamo a dare ospitalità alle persone. Come da nostro statuto, come da statuto dell'associazione, diamo disponibilità alle persone per i permessi premio, quindi ospitalità di brevi, anche solo di una notte qualche volta, per misure alternative, per esempio domiciliari, affidamento, e anche a fine pena. L'ospitalità in tutte queste fasi, e anche diamo ospitalità ai familiari in visita che vengono da fuori città, che vengono da lontano. Ovviamente col Covid anche questo si è molto ridotto, ma ci sono stati dei periodi anche molto intensi, insomma, di un giro continuo. Per questa funzione riserviamo uno dei monolocali che abbiamo. Gli ambienti che abbiamo sono molto piccoli, sono tendenzialmente monolocali, tranne qualcuno. Ultimamente poi abbiamo avuto anche da un privato un appartamento più grande, sempre con le stesse modalità di comodato d'uso gratuito, quindi lì possiamo alloggiare più persone. E poi in rapporto a questi progetti di reinserimento, abbiamo anche in affitto dall'ACER due altri alloggi. Anche per oggi la nostra pillola termina qui, ma noi ci rivediamo settimana prossima, sempre in compagnia di Fernanda Biuso, per parlare ancora di associazione AVOC e di persone dimittendi all'interno della stessa. Alla prossima. Rieccovi, bentornati. Siamo giunti ai saluti di fine puntata e naturalmente seguono le nostre rubriche. Questa volta l'intervista Dialoghi sulla cittadinanza ha come ospite Antonio Omero, che è ex docente, autore di Guida di pubbliche utilità, nonché fondatore dell'associazione di assistenza sociale Mai più solitudine. E noi vi salutiamo, vi ricordiamo di iscriverci, redazione liberidentro, @gmail.com. E come al solito, un saluto da me che sono Caterina, da Enea Flavio, da Antonella Cortese, da Diana Bota, e noi ci rivediamo domani. Grazie, ciao. Liberi dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.